A Parigi la città e le sue donne diedero la testa a Filippo. Lo vidi ridere con il naso affondato nei riccioli delle cortigiane. Non mi alzai per imporgli di comportarsi con decoro, almeno in mia presenza, soltanto perché Beatrice mi tirò per le gonne. Tanti elogi meritava questa città. Avevo sognato di vedere il fiume, i ponti, Notre Dame. Ma Parigi era fredda e piovigginò per giorni interi. Per quanto nei palazzi brillassero sontuosi i candelabri, l'oro, gli affreschi a colori vivaci, io non provavo che il desiderio di andarmene via quanto prima. Filippo andava tutto il giorno a caccia e ritornava sudicio, puzzolente di cavallo e di vino. Mi si gettava addosso con un'esuberanza eccessiva nella quale io indovinavo le fantasie per il corpo di altre donne. Lo convinsi a lasciarmi andare a Blois. Avrei viaggiato con il seguito e lui mi avrebbe raggiunto cavalcando a tappe. Lo lasciai a Parigi. Temevo che se avessi continuato a essere testimone delle sue infatuazioni, non sarei riuscita a contenere gli artigli e i denti del mio animo. Non so da dove sgorgano la rabbia e l'angoscia che mi travolgono quando lo vedo affascinato dal profilo di un altro volto, non si accorge dei propositi ingannevoli delle donne che lo adulano e cade nei loro giochi senza pensare a quanto ridicolo e infantile appaia agli occhi degli altri. Ma gli uomini che gli stanno attorno lo viziano come un bambino ed elogiano la grazia dei suoi modi. Se io mi irrito, invece, sono la strega che lo perseguita e gli impedisce di godersi la bellezza e la gioventù. Fai finta di niente, mi consiglia Beatrice. Noi uomini finiamo per odiare le donne che ci adulano troppo, sentenzia il vescovo Fonseca. Credo che la mia idea di lasciare Parigi, di evitare che gli occhi vedano perché il cuore non soffra, è stata assennata nonostante il vuoto e l'angoscia che ha prodotto in me. Alle porte di Blois aspettammo l'arrivo di Filippo. Arrivò al mattino cavalcando gagliardo su un destriero nero dal pelo lucido, si inginocchiò davanti a me facendo una riverenza esagerata con un grande cappello nero di feltro adorno di una piuma ramata. Mi abbracciò, gioviale e di buon umore. Quando arrivò, lo spirito dell'intera comitiva si trasformò per incanto e facemmo il nostro ingresso nel castello sotto un cielo limpido, ricco di buoni auspici. Nella sala del trono era in attesa una nutrita schiera di nobili riccamente vestiti. Il re Luigi, che indossava un farsetto bianco ricamato a gigli dorati, rispose al saluto del ciambellano che annunciava Filippo con le parole «Voilà, Monsieur le Archiduc!» esclamando «Voilà un beau prince!». Il mio sposo fece tre riverenze davanti al re, ma io, che entrai dopo, mi inchinai soltanto una volta. Il re allora venne avanti, mi offrì il braccio e mi baciò affettuosamente il capo. Poco dopo, alludendo al fatto che mi sarei annoiata con i discorsi da uomini, mi invitò a recarmi con le altre donne nella stanza della regina. Le mie dame ed io ci ritirammo. La regina Anna ci offrì tè e succhi di frutta in un raffinato salotto dalle alte finestre che davano su un giardino, le cui siepi perfettamente allineate e potate assomigliavano alla verde sagoma di un pavone. La regina era una donna cerimoniosa, con il volto lungo e grandi occhi grigi. Lei e le sue dame mi esaminarono apertamente, da cima a fondo. Feci lo stesso. Mi resi conto all'istante che non eravamo destinate a diventare amiche. Il giorno dopo, durante la messa, al momento dell'offerta, mandò una delle sue dame con un vassoio d'argento pieno di monete a chiedere le decime a nome suo. Se lo avessi fatto, avrei riconosciuto la mia sottomissione alla sua regale autorità. Declinai l'invito. Non mi importò che Filippo si abbassasse ad accettare le monete che gli aveva mandato il re. Dichiarai che mi sarei occupata personalmente della mia offerta. Finita la messa, la regina non mi invitò a unirmi al suo corteo per uscire dalla chiesa. Rimasi in ginocchio, fingendo di pregare, e uscii quando lo ritenni opportuno. La sera, all'ora di cena, rifiutai gli abiti di stile borgognone, mi vestii alla moda spagnola e ordinai alle mie dame di fare altrettanto. Mentre io mantenevo le distanze con il re di Francia, Filippo riceveva in regalo da Sua Altezza Luigi XII, un falco e lezioni di falconeria. Usciva quotidianamente a cavallo con il re per passeggiare o per partite di caccia. Era affascinato dalla gentilezza e dalla cultura del re francese, il quale concesse abilmente al mio ingenuo Filippo il titolo di principe della pace. Il re Luigi pensa che nel caso in cui tua madre morisse, tuo padre non cederà il trono e non accetterà di ritirarsi in Aragona. Un altro monarca consorte lo farebbe, ma non Ferdinando di Aragona, mi disse una sera, rincuorato dal vino e dalla comodità del materasso di piume. Avremo bisogno di alleati per reclamare il trono, Giovanna. E quale migliore alleato del re di Francia? Tu avrai bisogno di alleati, dissi. Io non voglio scontrarmi con mio padre. Per me il suo amore è più importante di qualsiasi regno. Non immaginavo allora quanto sarebbero risultate profetiche le sue parole, né come avrei sofferto per la mia lealtà. Il mio rifiuto a rendere omaggio al re e alla regina di Francia generò tensioni che Filippo preferì rimuovere abbreviando la nostra visita e riprendendo il cammino verso la Spagna. Era riuscito a consolidare l'amicizia con il re Luigi e temeva che io vanificassi i suoi sforzi se fossimo rimasti ancora lì. Partire da Blois in anticipo significò dover attraversare i Pirenei e la Cordigliera Cantabrica nel periodo più rigido dell'inverno. Con il gelo e con la neve, il 26 gennaio del 1502, arrivammo finalmente a Fuenterrabia. Lì ci ricevettero in pompa magna il commendatore di León, Don Gutiérrez de Cardenas, e Don Francisco de Zúñiga, conte di Miranda. Ci ospitarono per alcuni giorni in un palazzo da cui si vedeva il mare e ci fornirono una partita di robuste mule di Vizcaya per il trasporto dei pesi durante il resto del viaggio. Dato che la nostra carovana era imponente e troppo carica per attraversare i passi montuosi, bisognò rimandare le carrozze nelle Fiandre e continuare il viaggio su mule e cavalli. Esposti al freddo e al forte vento, attraversammo le gole del monte San Adrián. 5 ore durò quel martirio, quel lento avanzare tra una caduta e una scivolata di animali e di uomini del seguito che procedevano a piedi. Io mi coprii completamente con una pelliccia di orso sotto il cappuccio, battendo i denti e passandomi la lingua sulle labbra spaccate dal freddo secco. Cercavo di non pensare alle maledizioni che stavano probabilmente proferendo i fiamminghi di fronte a un accesso tanto disagevole alla Spagna. Meno male che potemmo riposare a Segura, ma non prima di aver ricevuto l'omaggio dei nobili, della popolazione locale e di coloro che venivano da molto lontano. Ci accolsero con tante feste e baciamano che ci ridussero a pezzi. Riprendemmo le forze alcuni giorni dopo, nella Valle dell'Ebro, in direzione della Castiglia. Per me ritornare in Spagna, ascoltare i dolci suoni della mia lingua, osservare le fisionomie vigorose, i colori familiari, respirare l'aria dei suoi paesaggi, fu come svegliarmi da un lungo letargo. Il sangue galoppava con impeto verso il mio cuore. Il commendatore Gutiérrez de Cardenas mi confidò che mesi prima, per preparare il nostro arrivo, mia madre aveva dato l'autorizzazione a sostituire i vestiti neri a lutto, imposti per la morte dei miei fratelli, con abiti colorati e confezionati con materiali ricchi. Dovunque passavamo, quindi, i notabili delle cittadine ci ricevettero abbigliati con magnifici vestiti di nuova confezione. Filippo manifestava compiacimento e stupore per il benessere e la ricchezza degli aristocratici e per il grande numero di castelli fortificati che incontravamo sul nostro tragitto. Alle porte di Burgos, i soldati ci confusero con una schiera di invasori e chiusero le porte della città. Fu un episodio di cui ridemmo molto perché, non appena si chiarì il malinteso, la città diede il via al grande ricevimento che ci aveva preparato. 18 cavalieri vestiti di rosso alzarono un baldacchino dorato sulle nostre teste. In segno di sovranità, il primo scudiero di Filippo levò in alto la spada da cerimonia di erede del regno di Castiglia mandata dai miei genitori. La folla si profuse in evviva e in acclamazioni. Più tardi, Don Inigo de Velasco, conestabile di Castiglia, ci intrattenne con corride di tori e un banchetto squisito. Questi ricevimenti si ripeterono a Valladolid, Medina del Campo, Segovia e Madrid. A Valladolid, Filippo fu preso dal malumore per la sparizione di un baule che conteneva preziosi pezzi del suo vasellame d'oro. Mi dispiacque che i miei compatrioti lo avessero derubato, ma ero troppo contenta di ritrovarmi nel mio paese per irritarmi. Mio Mi emozionò a rivedere l'ammiraglio di Castiglia, Don Fadrique Enriquez, lo stesso che mi aveva accompagnata nella traversata per mare verso le mie nozze, sempre con nobiltà d'animo e con l'augurio di felicità. A Madrid arrivammo il 25 marzo di Venerdì Santo e vi rimanemmo fino al 28 aprile. Molte sere Filippo e io scappammo dal palazzo vestiti come gente comune e ci mescolammo con altri uomini e donne nel mercato della città senza essere riconosciuti. Filippo mi accompagnò anche a battesimi di Mori e di ebrei convertiti al cristianesimo. Il mio confessore, Diego Ramirez de Villescusa, pensava che la partecipazione del principe alla bella e solenne liturgia avrebbe attenuato la sua avversione per la nostra pratica di conversione degli infedeli. Dopo lunghe giornate di instancabile attività, di notte l'energia di Filippo, invece di diminuire, raddoppiava. Pacificato dal buon vino spagnolo e accarezzato dall'ammirazione e dalle premure di cui lo colmavano, celebrava il nostro amore con grandi dimostrazioni di passione e di fantasia, alle quali io mi concedevo con gioiosa ed energica complicità che si trattasse di lasciarmi spremere uva sulla pelle o di farmi accarezzare con le piume. I contrasti non riuscivano a fiaccare il perfetto dialogo tra i nostri corpi, che come un ingranaggio squisitamente calibrato raggiungevano un'armonia che né lui né io ci spiegavamo e alla quale non eravamo capaci di resistere. Pativamo il perentorio bisogno di fonderci, penetrarci, sfinirci. Io dovevo solo passare le mie dita sul suo braccio o sul collo, o lui fare la stessa cosa perché l'odio rimanesse sospeso come un'immagine imprigionata nel riflesso di luci lontane. In una lite, più ci arrabbiavamo, e più intensamente poi ci aggrappavamo l'uno all'altra. È una follia, Giovanna, una follia, mi sussurrava. A volte mi veniva in mente la pozione che Beatrice mi aveva dato durante il mio viaggio verso le Fiandre. Mi domandavo se Filippo l'avesse presa, o se alla fine gliel'avessi data io, ma non me lo ricordavo. Ringraziai sentitamente i miei genitori per quei giorni felici a Madrid. Li ringraziai perché erano rimasti discretamente in Andalusia, permettendo così a Filippo e a me di ricevere l'omaggio della nobiltà e della popolazione. In caso contrario, l'animo di Filippo sarebbe stato offuscato dal timore che gli ispiravano i miei genitori, sovrani splendidi che godevano del rispetto e dell'ammirazione del mondo intero. Nel corso del viaggio avevamo constatato la grandezza e l'ordine del regno. La gente semplice tesseva gli elogi dei propri monarchi e confrontava di continuo il presente con l'anarchia, la violenza e i costanti conflitti che avevano afflitto il paese prima dell'avvento dei re cattolici. Buona parte della nobiltà, invece, pativa il controllo e il vassallaggio imposto dai reali e non perdeva l'opportunità di mettere al corrente Filippo delle ambizioni di mio padre e di offrirgli appoggio per la difesa dei nostri diritti. Filippo mi riferiva queste conversazioni con personaggi di cui taceva il nome per dimostrare quanto fossero appropriate le loro considerazioni e quelle dei suoi consiglieri sulla necessità di guardarci dalle possibili manipolazioni e dagli stratagemmi di mio padre. Finalmente ci mettemmo in viaggio per Toledo, la mia città natale, e il luogo in cui ci avrebbero ricevuto le Cortes per accordarci il mandato reale e per riconoscerci ufficialmente eredi della corona. Sfortuna volle che in aprile a Olias Filippo si ammalasse di morbillo. Mio padre ci raggiunse per occuparsi della sua salute. Non mi aspettavo una tale dimostrazione di affetto. Ricordo bene la mia gioia e la sorpresa quando, sentendo rumori concitati nel patio della villa in cui ci ospitavano, mi allontanai dal mio febbricitante marito per affacciarmi alla finestra e vidi mio padre smontare da cavallo. Corsi giù per le scale per andargli incontro e lui mi ricevette con un abbraccio tanto stretto da togliermi il respiro. Fissai il suo volto dai lineamenti marcati, induriti dal sole e dal tempo, i suoi occhi scuri mi esaminarono a lungo come se non mi riconoscessero. E riconoscendomi al tempo stesso. Indossava abiti neri che sapevano di lana e di polvere, aveva la barba ispida e brezzolata. Mi abbracciò più volte. Ricordo che l'impugnatura della sua spada mi si piantava tra le costole, mentre mi portava i saluti di mia madre e si stupiva di quanto fossi cambiata in quegli anni, mi chiese di accompagnarlo senza indugio da mio marito, poiché era molto preoccupato per la sua salute. Mi resi conto che nella preoccupazione albergavano i fantasmi dei miei fratelli. la cui morte improvvisa aveva portato Filippo e me alle porte di Toledo. Mio padre mi raccontò che la cattiva notizia della malattia del genero era arrivata mentre la comitiva di notabili e di vescovi che avrebbero accompagnato mia madre e lui a riceverci alle porte della città era sul punto di partire. Quando annullarono la cerimonia si diffuse l'angoscia. Ho voluto venire personalmente, disse, per assicurarmi che non vi mancasse nulla. Salimmo insieme in camera. Mio padre si scoprì il capo entrando. Il medico della corte aveva appena diagnosticato il morbillo. Il volto di Filippo era arrossato per effetto della febbre e della malattia. Alla vista del re tentò di alzarsi dal letto, ma mio padre glielo impedì con fermezza e bloccò con un gesto il cenno di mio marito di baciargli la mano. Oh, lascia da parte le riverenze e le formalità, figlio mio. Io traducevo in francese. Mio padre si dimostrò estremamente amabile e cordiale e lieto per la buona impressione che Filippo aveva suscitato in coloro che lo avevano conosciuto durante la nostra permanenza in Spagna. Doveva preoccuparsi soltanto di recuperare la salute, gli disse. Non era importante che la cerimonia delle Cortes fosse rimandata di qualche giorno. La sua signora, la regina, pensava di venire a trovarlo il giorno seguente, aggiunse, nonostante fosse anche lei un poco indisposta. Filippo mise da parte ogni timore e fece sfoggio di galanteria, affermando con insistenza che la regina non doveva stancarsi, tanto più che avrebbe potuto correre il rischio di contrarre quelle febbri lei stessa. Se fosse venuto a sapere che lei si preparava a venire a Olias, si sarebbe alzato qualsiasi fosse il suo stato di salute e sarebbe andato a riceverla alle porte della città. La veemenza di Filippo piacque a mio padre. Sorrisi dentro di me, pensando a quanto fossero diversi gli uomini della mia vita. Mio padre mancava di raffinatezza in confronto al re di Francia, a mio suocero e persino ai nobili fiamminghi. I suoi vestiti neri e senza guarnizioni erano in contrasto con i raffinati ornamenti borgognoni. La semplicità del suo abbigliamento, però, non faceva che mettere in risalto la sua prestanza, la maniera naturale con cui comunicava la sua autorevolezza. Filippo, invece, bello e raffinato com'era, accanto a lui, sembrava un topolino timoroso, obbligato a conversare con il gatto che avrebbe potuto mozzargli il capo con una zampata. Le sue mani contratte denotavano lo sforzo che faceva per tenere alta la testa sul guanciale. Mio padre, intanto, stava seduto su una sedia accanto a lui, con le gambe divaricate e il corpo chino in avanti. Gli spiegò brevemente in che cosa consisteva la cerimonia a Toledo e dopo mezz'ora circa di visita si alzò e disse che se ne andava perché Filippo potesse riposare e riprendersi. Mi ero sentita per anni sola e senza protezione nelle Fiandre. Ora la presenza del mio signore, il re, mi restituiva la nozione della mia dignità regale più di qualsiasi discorso dei miei confessori o dei miei consiglieri. Dopo averlo salutato nel patio della villa e averlo visto uscire al galoppo assieme al drappello che lo accompagnava, ritornai accanto a Filippo. La visita lo aveva rianimato, guarì in poche settimane. Il 7 maggio entrammo trionfalmente a Toledo. Al nostro seguito si unirono i personaggi e i dignitari che ci aspettavano a diverse leghe dalle mura della città, i rappresentanti della giustizia delle Cortes, il clero, gli ambasciatori di Francia, di Venezia, il cardinale Mendoza, 6.000 nobili del regno e infine mio padre, in sella a un bel sauro. Filippo e io ci disponemmo al suo fianco, il mio sposo sulla destra e io sulla sinistra. Tutti e tre cavalcammo alla testa del lungo corteo. Era uno splendido giorno di primavera. Il cielo azzurro faceva risaltare i contorni rossicci della terra. Le facce entusiaste della gente che stava ai bordi della strada erano tutti occhi e bocche sorridenti in uno spiegamento di colori e di stendardi. Desiderai che i miei figli avessero potuto vedere quello spettacolo e mi distrassi per guardare una bambina che un contadino reggeva sulle spalle in mezzo alla folla di curiosi e che aveva una somiglianza straordinaria con la mia piccola Isabella. Quando alzai gli occhi e recuperai il passo, mio padre e Filippo, dimentichi di me, avanzavano sotto un baldacchino dorato che alcuni paggi avevano alzato sulle loro teste. Mi infastidii che non mi avessero aspettato. Senza voltarsi, mio padre continuò ad avanzare verso la cattedrale, ormai molto vicina, accompagnato unicamente da Filippo. Pur da quella distanza, vidi che il cardinale Cisneros e mia madre erano usciti per riceverli. Che avessero raggiunto la cattedrale senza di me era una scorrettezza su cui non sorvolammo mia madre ed io. Ma la rabbia non riuscì a raggiungere il mio cuore. Perdonai la smargiassata, il bisogno tutto maschile di marcare il territorio e di punire la momentanea nostalgia di una donna che sente la mancanza della sua creatura, perché in quel momento fui totalmente presa dalla vista di mia madre. Vestita completamente di nero, Isabella non aveva concesso né a me né a mio padre il permesso di abbandonare il lutto come aveva fatto con i suoi cortigiani. La morte dei miei fratelli le aveva segnato il volto, che io ricordavo vellutato e madreperlaceo. Solchi scuri sotto gli occhi rivelavano il passaggio del dolore. Due archi profondi andavano dalle narici ai lati della bocca. Dalle occhiaie scure, tuttavia, il suo sguardo brillò posandosi su di me e mentre abbracciava Filippo, guardandomi con la coda dell'occhio, colsi il suo messaggio. Non dovevo angustiarmi perché lei si sarebbe preoccupata di mettere le cose a posto. Finalmente toccò a me ricevere l'abbraccio. Chiusi gli occhi sul suo petto e annusai il suo profumo, tanto diverso dall'odore rancido che emanava quando partì. Ora sapeva di lavanda e di lana. Mi passò dolcemente la mano sui capelli intrecciati attorno alla testa, incapace di reprimere il raro gesto di tenerezza. Ma erano 6 anni che non ci vedevamo e non poteva fare altro che manifestare gioia quel giorno. Sotto l'arcata della cattedrale di Toledo, nella quale entrammo per il nostro giuramento di futuri sovrani. Seguirono il Te Deum, i canti, l'incenso, uscimmo tra le acclamazioni di giubilo della folla. Mio padre non si staccava da Filippo, che sentendosi già re si guardava attorno con l'arroganza del padrone e sovrano. Ci dirigemmo al palazzo dove tutti e quattro saremmo rimasti soli, finché non si fosse dato inizio più tardi al banchetto. In privato, Filippo li informò della cattiva notizia che ci avevano dato a Orléans, la morte di Arturo, il quindicenne principe di Galles, marito di mia sorella Caterina. A 17 anni lei perdeva con la vedovanza la speranza di diventare regina d'Inghilterra. La Spagna rimaneva di nuovo sotto l'incognita delle alleanze future. Mia madre non poté evitare il lamento che le uscì dal cuore. Un rantolo roco che trattenne con la mano sulla bocca. Mio padre si alzò e gettò altra legna nel camino con un gesto quasi di rabbia. Porca miseria! Gli sentii dire tra i denti, nell'italiano della sua amata Napoli. Passarono 25 giorni ad architettare alleanze e a combinare matrimoni che consolidassero la posizione della Spagna. L'unica certezza che ancora avevano era che un fiammingo che non parlava nemmeno la loro lingua avrebbe occupato il trono di Castiglia e di Aragona. Questo avranno pensato, e lo pensavo anch'io. Filippo sembrava angosciato, ma poteva capire ben poco della profonda desolazione dell'uomo e della donna che occupavano la sala grigia nel palazzo di Toledo, immersi in un silenzio pieno di preoccupazioni. La gioia dell'incontro con i miei genitori era stata breve. Dall'indomani mattina la gente avrebbe dovuto vestirsi a lutto per 9 giorni. Dagli uomini vestiti da corvi delle cortes di Castiglia io avrei ricevuto il mandato di ereditare la corona di quei regni devastati dalla morte dei suoi giovani principi. Mi chiesi quali spine stessero pungendo l'anima di mia madre, se provasse rimorso o se pensasse che tante disgrazie erano il castigo per aver usurpato il trono alla Beltraneja e per averla obbligata a rinchiudersi in un convento. Mi faceva tremare il pensiero che ora quel regno maledetto sarebbe toccato a me, a Filippo e ai nostri discendenti. Mi vennero in mente le parole di Cristo: Padre, allontana da me questo calice.